Questo capitolo di Matteo 6, 25 e seguenti solo apparentemente può sembrare un brano facile e semplice. È un brano complesso. E mi sembra che la chiave di lettura stia proprio alla fine. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto ciò che vi necessita, cibo, vestito, alloggio, verrà di conseguenza. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani avrà già le sue preoccupazioni. A ciascun giorno basta la sua pena, il suo affanno. Qui non entrano tutti i discorsi, allora non mi devo impegnare per il domani. No, no, siamo fuori pista. Qui ti dice che anzitutto devi cercare il regno di Dio. E allora questa parola comprendiamo subito che ci spiazza quando noi diciamo, e io lo sento tante volte dalla gente, ma non vado in chiesa perché non ho tempo. Sa, nel mondo d'oggi tutto quello che c'è da fare, e poi i figli, e poi gli anziani, e poi cercate anzitutto il regno di Dio. Si fa in fretta lei a dire così, ma e allora mi sembra, tornando all'inizio, che ci sia una parola che ci offra la soluzione. Io vi dico, non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che... La soluzione sta in questo verbo. Non preoccupatevi. Io ho imparato, qualcuno me l'ha insegnato, non l'ho inventato io, e mi sembra una cosa geniale. Occuparsi sì, preoccuparsi no. Occuparsi sì, perché noi dobbiamo gestire la nostra vita. La pandemia ha stravolto tutto quanto, però speriamo che si ritorni a una vita più o meno normale. In questo caso bisogna programmare. Dal programmare un matrimonio, anche se quelli in questo periodo sono saltati tutti, al programmare una vacanza, al programmare una spesa, dobbiamo occuparci. Gesù ci dice che dobbiamo non preoccuparci, cioè occuparci in eccesso, fino a perdere la pace, l'ansietà. È una malattia molto diffusa l'ansietà, la preoccupazione. Proprio perché noi non viviamo questo occuparci sì, preoccuparci no. Quante volte io di fronte a persone che sono allarmate, sono preoccupate, sono ansiose, uso un gesto semplicissimo, dico: dammi il tuo polso. Stendono la mano, io tocco il polso e dico: sento il tuo cuore. Il tuo cuore batte adesso. Tu non ti preoccupi di domani. Il tuo respiro avviene adesso. Non dici: ma chissà se domani respirerò ancora. Lascia che il domani arrivi e vedrai che il tuo cuore batterà e il tuo respiro arriverà. Questa è una grande medicina contro l'ansia. Io ricordo un mio amico, si dice malato terminale, no? Era avanti in questa malattia, tant'è vero che era in ospedale, insomma, per le ultime cure. E noi si ragionava e si diceva: che ti aiuta a vivere bene la giornata di oggi è vivere questa frase: ciascun giorno ha il suo affanno. E gli dicevo: domani mattina, quando ti svegli, vai alla finestra, apri la finestra, vedi il sole che sorge e dice: toh, anche oggi il sole è sorto e io l'ho visto oggi.